verso la fine del 2020, inizio del 2021, è stata una mossa non inattesa, nel senso che Barcellona poi aveva già preso diversi provvedimenti in questa direzione, quindi è stata una naturale estensione dei provvedimenti già presi in precedenza. Quindi l'introduzione in un certo senso è stata graduale? Quando si parla di Barcellona non si può mai dire troppo graduale, perché poi quando decidono di fare una cosa la fanno sul serio. Però diciamo, per esempio, il quartiere di Gràcia, che è un quartiere a nord rispetto a Plaza Catalunya, quindi una zona tutto sommato abbastanza centrale, insomma, con anche degli usi diversi dal punto di vista urbanistico, è una zona che nei precedenti 15 anni era stata quasi interamente pedonalizzata o addirittura resa a velocità massima di 10 km all'ora, quindi erano state proprio ridotte le ampiezze delle sedi stradali a favore dei marciapiedi, erano stati praticamente tolti tutti i parcheggi in strada se non pochissime vie. Gràcia è un quartiere che ha un'estensione di 4,2 km quadrati, che è po' come Bologna, no? Che è 4,5 km quadrati, solo che a Gràcia ci stanno, nel centro ci stanno 125.000 persone e a Bologna circa un 50.000 nella parte centrale. Considera che ci saranno 4-5 strade in tutto con parcheggi in strada, quindi quell'esperimento, quel quartiere che era stato utilizzato, non l'unico, ma era stato utilizzato per fare degli esperimenti nella decada precedente, e adesso poi è stato esteso anche a una zona della città che è la Champla, che è la parte quella proprio tutta ortogonale, molto molto ordinata, molto squadrata, che ha anche sedi stradali più grandi, viali più grandi, edifici più alti, dove anche lì diciamo due strade su tre sono state portate da 50 a 30 km all'ora, con poi un'ulteriore idea di ridurre ulteriormente le strade a 50 km all'ora, perché poi l'altra azione che adesso è in corso qui è quella dei superblocchi, quindi proprio di lasciare in questo reticolo molto ordinato solo una strada su tre a percorrenza diciamo pubblica, e poi pacificare completamente le strade interne, quindi creare un superblocco fatta da 3x3, quindi 9 isolati, all'interno dei quali sostanzialmente non è più distinguibile il marciapiede dalla strada, perché è stato tutto reso a misura di pedone, a misura di bambini, tant'è che appunto che anche nella Champla si tornano a vedere i bambini giocare per strada adesso. Qual è stata la reazione della popolazione rispetto appunto ai limiti di velocità? Le lamentele ci sono sempre, però da un lato c'è diciamo una volontà politica di andare avanti, supportata dai numeri, perché poi è l'esempio che ti facevo prima in Gràcia: a fronte della pedonalizzazione i valori degli immobili sono tutti più che raddoppiati, quindi anche il proprietario dell'immobile che magari all'inizio bestemmia un po' perché non trova più il parcheggio sotto casa, ammesso che prima lo trovasse, si trova comunque adesso un immobile che vale il doppio, ecco, quindi da questo punto di vista c'è un misto, no, di mancanza di timore da parte dell'amministrazione pubblica a fare le cose che si sanno che insomma che sono quelle giuste, che sono quelle da fare, e dall'altro insomma una storia anche della città che comunque dal punto di vista urbanistico tende sempre a reinventarsi. Ci sono delle strade che io sono qua da 15 anni ma le ho viste rifare 3 o 4 volte, ecco, quindi credo che siano un po' insieme di queste due cose. Che impatto ha avuto? Perché uno dei dibattiti che c'è a Bologna, c'è tutta una fetta di popolazione che magari sarebbe anche favorevole a questa rivoluzione, però con un incremento sensibile della frequenza e dell'efficacia anche del trasporto pubblico. Ecco, Bologna non ha come Barcellona la metropolitana, quindi che impatto c'è stato a Barcellona? Barcellona ha effettivamente un trasporto pubblico stellare, quindi è chiaro che viene quasi a mancare il bisogno della macchina, a meno di non proprio avere delle occupazioni molto particolari o che ti portano a dover viaggiare, entrare e uscire dalla città e recarsi poi in posti isolati, perché poi in generale la Spagna è un posto molto diverso dall'Italia, dove le persone si concentrano nelle grandi città, mentre l'Italia è un paese di paesi, quindi è sicuramente oggettivamente più difficile costruire una rete del trasporto pubblico che supporti una scelta di questo tipo. Però se ci limitiamo all'ambito urbano, le conseguenze distanze non esistono, perché in città basta prendere un cronometro, cioè ci si muove a una velocità che attorno la media è tra i 15 e i 18 km all'ora, no? Quindi abbassare il limite da 50 a 30 significa semplicemente sgommare meno al semaforo e frenare meno bruscamente al semaforo successivo, ma in termini di percorrenza non cambia assolutamente nulla. Questa cosa, tra l'altro, a Barcellona la vedi ancora di più e anche spostata su altri mezzi, perché la città ha veramente un sacco di intersezioni, sono tutte regolate da semafori, no? Sono tutte intersezioni che non possono essere trasformate in rotonda, non ci sarebbe, solo anche a volte incroci complessi, quindi non sarebbe possibile gestirli in maniera diversa se non attraverso la maniera semaforica. E quindi tu, avendo un semaforo ogni 120 metri, non solo la bici va forte come l'auto o di più, ma delle volte il pedone quasi, se la bici è sfortunata, il pedone viene staccato dalla bicicletta e dall'auto quando viene verde, ma poi se sono molto sfortunati il ciclista e l'automobilista vengono quasi raggiunti dal pedone al semaforo successivo. Ecco, il limite da quel punto di vista non ha nessuna conseguenza. Altro discorso è dire: voglio abbandonare l'auto o ne voglio ridurre l'uso in maniera drastica, e qui sì che serve il trasporto pubblico e servono anche queste nuove forme di micromobilità che stanno sviluppandosi sempre di più, come le bici a pedalata assistita, gli sharing e tutto quanto, insomma. Nelle strade a 30 km orari il limite viene rispettato? Sì, viene rispettato, ma sia per cultura sia per controlli. Qui creano proprio degli imbuti sulle strade principali e testano il 100% di quelli che passano di lì. Ti fanno proprio passare la voce, cioè non c'è possibilità di scampo, di fuga. E poi l'altro aspetto è il discorso proprio delle intersezioni, del design stradale, cioè quando tu inizi a restringere le carreggiate, ad allargare i marciapiedi, a disegnare anche proprio il colore delle intersezioni in un certo modo, fai capire all'automobilista che lui è l'ospite, che può girare di lì ma deve chiedere il permesso e non viceversa, e in questo modo la città torna, diciamo, a riempirsi appunto di bambini che giocano per strada. I controlli sono sicuramente una parte importante e i controlli poi inducono, diciamo, una cultura comportamentale più matura e più confacente alla convivenza. E l'altro aspetto però è il design, cioè il design dell'intersezione stradale, della strada, del marciapiede, eccetera, fa veramente la differenza. Cioè tu a Barcellona puoi andare dal mare alla montagna e non trovi un marciapiede che non abbia il raccordino per salire o scendere con la bicicletta, no? Quindi sono delle piccole accortezze che però poi alla fine, quando tu devi decidere vado in bici, vado in trasporto pubblico o vado in macchina, fanno poi pendere la decisione in un senso o nell'altro, e una volta che la bilancia è spostata da una parte, dopo non torni indietro.